Capitolo 25. Entra il principe azzurro. Sto cercando di decidermi tra il dentro e il fuori, disse Anna, guardando dalla finestra di Patty's Place i lontani pini del parco. Ho un pomeriggio libero da spendere nel dolce far niente, zia Gemsina. Potrei starmene qui accanto a questo accogliente camino con un piatto colmo di deliziose mele ruggine, tre gatti che fanno le fusa in dolce armonia e due impeccabili cani di porcellana con i nasi verdi. Oppure potrei andarmene nel parco, dove mi attendono le lusinghe dei boschi grigi o dell'acqua che lambisce le rocce del porto. Se io fossi giovane come te, sceglierei il parco, rispose zia Gemsina, titillando l'orecchio giallo di Joseph con un ago da calza. Ma tu dici di essere giovane quanto noi, zietta? La stuzzicò Anna. Sì, nello spirito, ma devo ammettere che le mie gambe non lo sono altrettanto. Va a prendere un po' d'aria fresca, Anna, da un po' di tempo in qua, sei pallida. E allora andrò nel parco, disse Anna irrequieta. Oggi non mi sento in vena casalinga, voglio sentirmi sola, libera e selvaggia. Il parco sarà vuoto perché sono andati tutti alla partita di football. Perché non ci sei andata anche tu? Nessuno mi ha invitata, Altezza, nessuno. Nessuno, almeno tranne quell'orrido Dan Ranger. Io non andrei da nessuna parte con lui, ma per non ferire i suoi delicati sentimenti gli ho assicurato che non sarei andata affatto a quella partita. Non ci piango su, oggi non mi sento in vena di football. Va a prendere un po' di aria fresca, ripeté zia Gemsina, ma prendi l'ombrello perché credo pioverà. Mi sento i dolori alle ossa e mi duole soprattutto la gamba. Solo i vecchi hanno i reumatismi, zietta. Chiunque è soggetto ai reumatismi alle gambe, Anna. Invece sono solo i vecchi ad avere i reumatismi mentali. Grazie al cielo, io non li ho mai avuti. Quando hai le prime avvisaglie dei reumatismi alla mente, non hai che da andare a ordinarti la bara. Era novembre. Il mese dei tramonti rosseggianti, della partenza degli uccelli, dei canti tristi e profondi del mare, degli appassionati vocalizzi del vento tra i pini. Anna vagabondò attraverso i sentieri bordati di abeti del parco e, come disse lei stessa, lasciò che le folate del vento disperdessero le nebbie della sua anima. Non voleva essere turbata dall'incertezza, non amava la confusione, ma in un certo senso, fin dal ritorno a Redmond, per l'inizio del terzo anno, la vita non si era rispecchiata nel suo spirito con l'antica, perfetta, luminosa chiarezza. Eppure la vita a Patty's Place era lo stesso amato avvicendarsi di lavoro, studio, divertimento, così come era sempre stata. Ogni venerdì il vasto soggiorno, illuminato dallo scoppiettante fuoco del camino, era affollato di ospiti e riecheggiava di scherzi e di risate senza fine. Mentre zia Gemsina sorrideva beata a tutti. Le lettere del Jonas e di Phil giungevano spesso, arrivando di corsa da Saint Columba con il primo treno del mattino in direzione Phil e ripartendo al volo con l'ultimo treno della sera in direzione Jonas. Jonas era il favorito di tutti a Patty's Place, sebbene zia Gemsina scrollasse la testa affermando che gli studenti di cose divine non erano più gli stessi di una volta. Lui è davvero carino, mia cara, disse a Phil, ma i ministri di Nostro Signore dovrebbero essere più imponenti e di aspetto più austero. Può un uomo ridere, ridere ed essere ancora cristiano? Domandò Phil. Oh, gli uomini sì, ma io stavo parlando di un ministro della Chiesa, fiorellino mio, ribatté in tono di rimprovero la zia. E tu non dovresti flirtare a quel modo con il signor Blake, davvero non dovresti. Io non flirto con lui, protestò Phil. Nessuno le credette, eccetto Anna. Gli altri pensavano che badasse solo a divertirsi, come al solito, e le dicevano a turno che si stava comportando in maniera vergognosa. Il signor Blake non è del tipo Alec Alonso, Phil, la mise in guardia Stella con piglio severo. Lui prende le cose seriamente. Potresti spezzargli il cuore. Davvero? Pensi che potrei? Si rallegrò Phil. Adoro crederlo. Filippa Gordon, non ho mai pensato che tu potessi essere tanto insensibile. La sola idea che tu possa pensare di spezzare il cuore a un uomo. Non ho detto questo, mia cara. Citami in maniera corretta. Ho detto che adoro credere di poterlo spezzare. Mi piacerebbe cioè sapere se ne ho il potere. Io non ti capisco, Phil. Tu stai deliberatamente facendo girare la testa a quell'uomo e senza scopo. Oh, uno scopo ce l'ho, intendo indurlo a chiedermi di sposarlo, dichiarò calma Phil. Ah, ci rinuncio, si rassegnò Stella senza speranza. Gilbert arrivava di tanto in tanto il venerdì sera. Sembrava sempre di ottimo umore, non faceva che scherzare e lanciare battute spiritose. Non andava alla ricerca di Anna, ma nemmeno la evitava. Quando le circostanze lo mettevano in contatto con lei, le parlava con scioltezza e cortesia, come a qualcuno che conoscesse da poco. La vecchia amicizia se n'era andata. Anna lo avvertiva con dolore, ma diceva a se stessa di potersi considerare felice e fortunata che Gilbert non le serbasse rancore. Aveva realmente temuto quella sera d'aprile nel frutteto di averlo ferito nel profondo e che la ferita rimanesse aperta a lungo. Ora constatava di non doversene preoccupare. Uomini sono morti e i vermi li hanno corrosi, ma non per amore, si disse. Gilbert non correva chiaramente il rischio immediato di dissolversi. Si godeva la vita ed era pieno di ambizioni e di interessi, non si sarebbe abbandonato alla più cupa disperazione solo perché una donna l'aveva rifiutato. Anna, ascoltandolo mentre scherzava con Phil, lanciandole e rilanciando le battute spiritose, si chiedeva se aveva davvero visto quel lampo nei suoi occhi quando gli aveva detto di non nutrire speranze nei suoi confronti. Non mancavano altri che avrebbero volentieri preso il posto di Gilbert nel suo cuore, ma Anna li evitava senza paura e senza pena. Se il principe azzurro non fosse giunto, non si sarebbe accontentata di un surrogato. Così si disse con forza quel giorno grigio nel parco. Secondo la profezia di zia Jamesina, la pioggia giunse improvvisa e violenta. Anna aprì l'ombrello e si affrettò lungo il pendio. Come infilò il viale alberato, una selvaggia folata di vento spazzò furiosamente la via. Subito l'ombrello si rovesciò verso l'alto. Anna cercò disperatamente di rimetterlo in sesto e allora, proprio allora, una voce risuonò accanto a lei. «Mi scusi, posso offrirle il riparo del mio ombrello?» La pioggia scrosciò violenta per quasi un'ora. Ma il tempo sembrò loro assai breve, quando le nubi si squarciarono e un fascio di luce si protese obliquo sul porto, penetrando tra i pini, Anna e il suo compagno si avviarono insieme verso casa. Prima di giungere al cancello di Patty's Place, lui chiese e ottenne il permesso di farle visita. Anna entrò con le guance in fiamme e il cuore che le batteva furiosamente. Rusty, che le si acciambellò in grembo cercando di baciarla, ricevette un'accoglienza distratta. Anna, con la testa che risuonava di mille romantici squilli di campane, non aveva attenzione da dedicare a un gattino dalle orecchie mozze. Quella sera fu consegnato un pacco a Patty's Place per la signorina Shirley. Era una scatola che conteneva 12 magnifiche rose. Phil ficcò il naso davvero impertinente nel biglietto che era caduto a terra, lesse il nome e la citazione poetica scritta nel retro. «Royal Gardener?» esclamò. «Anna, non sapevo che conoscessi Royal Gardener!» «L'ho incontrato oggi pomeriggio al parco, sotto la pioggia», si affrettò a spiegare Anna. «Il mio ombrello si era rotto e lui mi è venuto in soccorso con il suo». Oi, Phil sbirciò curiosa Anna. E c'è in questo evento estremamente banale una qualche ragione per cui lui debba mandarti rose dal gambo lungo a dozzine con dei versi tanto sentimentali? Oh, perché arrossiamo del più divino roseo colore, in realtà tendente al vermiglio, nello scorgere quel biglietto? Anna, il tuo volto ti tradisce. Non dire sciocchezze, Phil, piuttosto. Conosci il signor Gardner? Ho incontrato le sue due sorelle e ho sentito parlare di lui, e ciò vale per tutti a Redmond. I Gardner sono tra i più ricchi e i più dotati di sangue blu, dei Blue Nose, ovvero della confraternita dei sangue blu. Roy è adorabilmente bello e intelligente. 2 anni fa sua madre si è ammalata e lui ha dovuto lasciare l'università e badare a lei, visto che il padre è morto. Lui deve essere rimasto molto male per aver dovuto lasciare gli studi, ma dicono che si è comportato molto bene e non l'ha dato a intendere. Phil alzò il naso per aria e soffiò rumorosamente. Ehi, Anna, fiuto aria da romanzo. Quasi quasi ti invidio, ma non proprio. Dopotutto Roy Gardner non è Jonas. Oca giuliva, ribatté Anna con aria di sufficienza, ma rimase sveglia a lungo e non desiderò dormire. I suoi sogni a occhi aperti erano più allettanti di qualsiasi terra dei sogni generata dal sonno. Era arrivato al fine il principe azzurro? Rivedendo quei meravigliosi occhi scuri che avevano guardato così a fondo nei suoi, Anna era fortemente indotta a pensare di sì. Capitolo 26. Entra Christine. Le ragazze a Patty's Place si preparavano per il ricevimento che gli junior davano in onore dei senior. Anna si contemplò allo specchio della sua cameretta azzurra con giovanile compiacimento. Indossava un abito particolarmente grazioso. Originariamente era stato soltanto un semplice sottoabito di seta color crema ricoperto di chiffon, ma Phil aveva insistito per portarselo a casa durante le vacanze di Natale, per ricamarvi dei leggeri boccioli di rosa su tutto lo chiffon. Le dita di Phil erano diventate insensibili, ma il risultato era stato strepitoso, tanto da generare l'invidia di tutte le ragazze di Redmond. Persino Ally Boone, i cui abiti giungevano direttamente da Parigi, era stata vista spalancare gli occhi di fronte a quella fioritura di boccioli mentre Anna scendeva dallo scalone principale di Redmond. Anna stava provando l'effetto di un'orchidea bianca tra i capelli. Roy Gardner le aveva mandato delle orchidee bianche e lei sapeva che nessun'altra ragazza se ne sarebbe adornata quella sera in tutta Redmond. Mentre sorrideva alla propria immagine, entrò Phil con uno sguardo colmo di ammirazione. Anna, questa è senza dubbio la tua serata. Sei stupenda. 9 sere su 10 io posso facilmente eclissarti, ma la decima tu sbocci all'improvviso, tanto da oscurarmi del tutto. Come fai? Ah, l'abito, mia cara, le belle piume. Non è così. Ieri sera splendevi di bellezza e indossavi quella vecchia camicetta di flanella azzurra che ti ha fatto la signora Linde. Se Roy non avesse ancora perso per te la testa e il cuore, li perderebbe entrambi stasera. Ma non mi piacciono le orchidee su di te, Anna. No, credimi, non è gelosia. Le orchidee non si accordano a te. Sono troppo esotiche, troppo tropicali, troppo insolenti. Non puntartele tra i capelli, in ogni caso. D'accordo, non lo farò. Ammetto di non amare le orchidee, nemmeno io. Non credo che mi si adattino. Roy non me le manda spesso perché sa che a me piacciono i fiori con cui posso vivere. Le orchidee puoi solo visitarle. Jonas mi ha mandato dei teneri boccioli rosa per la serata, ma lui non è venuto. Ha detto che deve presenziare un incontro di preghiera nei bassi fondi. Non posso credere che lui volesse andarci. Anna, ho una paura terribile che non gli importi niente di me. Sto cercando di decidere se è meglio per me consumarmi di dolore e morire o tirare avanti, prendermi la laurea e diventare saggia e razionale. Oh, tu non potrai mai diventare saggia e razionale, Phil. Perciò è meglio che ti consumi di dolore e muoia. Anna, senza cuore. Sciocca, Phil, sai perfettamente che Jonas ti ama. Ma lui non me lo dice. Ma parlami solo coi tuoi occhi, amore. Non è una ragione ragionevolmente ragionevole per mettersi a ricamare centrini e far l'orlo a giorno a tovaglie e lenzuola. Io non voglio cominciare questo genere di lavori per la mia dote, amore di fanciulla, finché non sono davvero fidanzata. Non voglio tentare il fato. Il signor Blake ha paura di chiederti in moglie, Phil. Lui è povero e non è in grado di offrirti una casa come quella in cui sei sempre vissuta. Sai bene che questa è la sola ragione per cui non si è ancora dichiarato. Penso di sì, concordò Phil addolorata. Bene, esclamò illuminandosi tutta, se lui non mi chiede di sposarlo, lo chiederò io a lui. Ecco qua, così è obbligato a funzionare. A me non dispiace. Tra l'altro, Gilbert fa ormai coppia fissa con Christine Stewart, lo sapevi? Anna si stava allacciando una catenina d'oro intorno al collo, ma non riusciva a chiudere il fermaglio. Che cosa era successo alla chiusura? O erano le sue dita? No, rispose distrattamente. E chi è Christine Stewart? La sorella di Ronald Stewart. Quest'inverno si trova a Kingsport per studiare musica. Io non l'ho mai vista, ma dicono che è molto carina e che Gilbert ha praticamente perso la testa per lei. Come mi sono arrabbiata, Anna, quando hai respinto Gilbert. Ma Roy Gardner era predestinato a te. Adesso me ne rendo conto, avevi ragione tu, dopo tutto. Anna non arrossì come le succedeva abitualmente quando le ragazze davano per certo il suo matrimonio con Roy Gardner. All'improvviso si sentì triste. Le chiacchiere di Phil le parvero banali e il ricevimento una noia. Se la prese con le orecchie del povero Rusty. Vattene subito via da questo cuscino, gattaccio! Perché non te ne stai giù dove devi stare? Anna afferrò le orchidee e scese da basso, dove la zia Jamesina stava sovrintendendo a una fila di cappotti appesi a scaldarsi accanto al fuoco. Roy Gardner stava aspettando Anna e stuzzicava Sarah Kate mentre attendeva. Sarah Kate non lo approvava e gli girava sempre la schiena, ma tutti gli altri a Patty's Place lo amavano. Zia Jamesina, trasportata dalla sua infallibile deferente cortesia e dal tono accattivante della sua mirabile voce, dichiarava apertamente che era l'uomo più bello che avesse mai conosciuto e che Anna era davvero una donna fortunata. Ma quei commenti rendevano Anna restia. Il corteggiamento di Roy era indubbiamente romantico, come un cuore di fanciulla poteva sognare, ma ecco, lei avrebbe voluto che zia Jamesina e le ragazze non dessero già tutto per scontato. Quando Roy le sussurrò una frase poetica, mentre l'aiutava a indossare il cappotto, lei non arrossì come al solito e il cuore non le balzò in petto. Roy la trovò stranamente silenziosa durante il breve tragitto verso Redmond. Gli era sembrata un po' pallida quando era uscita dalla toilette delle ragazze. Ma come entrarono nel salone delle feste, il colore le ritornò sulle guance. Si volse verso Roy con la sua espressione più gaia, lui le sorrise di rimando con quello che Phil chiamava il suo profondo, romantico sorriso di velluto, ma lei non lo aveva nemmeno visto. Era acutamente conscia che Gilbert era sotto le palme, proprio dall'altro capo della stanza. E parlava con una ragazza che doveva essere Christine Stewart. Lei era molto bella, di quella bellezza statuaria destinata a diventare matronale nella mezza età. Una ragazza alta, con grandi occhi di un azzurro carico, una pelle d'avorio e uno scintillio d'ebano nei capelli lucenti. Esattamente come ho sempre desiderato essere, pensò Anna avvilita. Pelle di rosa, lucenti occhi violetti, capelli corvini. Sì, lei ha tutte le doti che ho sognato di possedere. Non mi meraviglierei che suo nome fosse Cordelia Fitzgerald. Non mi pare però che abbia una figurina bella come la mia, e in ogni caso il naso non lo è di certo altrettanto. E trovò un po' di conforto in questa conclusione.